pubblicare questo video che potete vedere è anche l'aspetto che hanno potuto constatare direttamente delle condizioni di detenzione all'interno dei CIE, quindi già rispetto alle, in generale, le politiche delle migrazioni, c'è un altro video di una ragazza, la sorella di uno dei ragazzi tunisini dispersi, anche quello lo trovate sul nostro sito, che in maniera molto chiara dice che appunto il problema, cioè denuncia le responsabilità delle politiche di controllo delle migrazioni rispetto a questa questione. Quindi è una presa di coscienza e anche qua un avvicinamento delle due sponde, proprio individuando il fulcro di tutti i problemi, e cioè appunto delle politiche dell'immigrazione. Questo aspetto, fra l'altro, è stato anche fatto proprio dal governo tunisino, nel senso che contemporaneamente alla delegazione dei familiari c'è un'altra, è arrivato e c'è stato un incontro qualche giorno fa, ne parlava il Manifesto sabato, un incontro di rappresentanti del governo tunisino con Riccardi, dove fra le varie questioni è stata posta in maniera molto chiara anche quella dei familiari dispersi, quindi è un punto che nel affrontare i rapporti tra Italia e Tunisia, e quindi di accordi anche in materia di migrazione, viene posto in maniera cioè la Tunisia sta dicendo dovete trattare con noi, ma in maniera paritaria, quindi prima di tutto affrontando questa questione e poi rivedendo gli accordi. Questo insomma è quello che sembra di capire. Ovviamente si tratta di tempi che non sono così immediati, e quindi anche seguire i vari passaggi diventa come dire un lavoro anche un po' di attesa, però ecco, diciamo che gli aspetti fondamentali sono emersi anche a livello istituzionale, quindi da questo punto di vista siamo soddisfatte rispetto a insomma lo stimolo che ha dato questa campagna. Sembra che siete ascoltati un po'. Pronto? No, dicevo che sembra che le voci sono sentite, sono ascoltate. Mi senti? Sì, sì, no, insomma, le voci sono ascoltate da un lato appunto dal punto di vista della denuncia, dall'altro rispetto a questa questione adesso possiamo dire che c'è una richiesta formale proprio come partiva l'appello, quindi nel affrontare questa questione da entrambi i lati, sia da parte del governo tunisino che la posto in maniera esplicita al governo italiano, quantomeno a un ministro dell'attuale governo italiano. Direttamente, ma ci sono dei familiari che hanno ritrovato i figli facendo questa familiari cosa? Familiari che hanno ritrovato i figli? Sì. No. No, no, no. No. Cioè, no, questa cosa per adesso... Cioè, concretamente, comunque, le ricerche continuano, non è che... Sì, no, le ricerche certo che continuano, nel senso che per il momento non c'è una risposta rispetto alle le liste dei dispersi, quindi non c'è una un punto definitivo di che cosa ne è stato. Okay. quindi questo e le ricerche ovviamente continuano fin tanto che questa risposta non arriva in maniera chiara. Dopodiché, dal punto di vista di come viene gestito anche la richiesta di scambio di impronte, sono dei punti un po' delicati, nel senso che ovviamente parlando di persone che ipoteticamente possono essere ristrette all'interno di CIE e all'interno di carceri e che quindi normalmente entrano in questo circuito per essere rimpatriate nel paese, è chiaro che la questione presenta anche il rischio di una possibile strumentalizzazione rispetto ad una ricerca che sia non finalizzata a ritrovare queste persone, bensì a rimpatriare persone che non hanno, nel momento in cui sono entrate dentro il CIE, dato la loro identità e, come normalmente avviene in questi casi, richiedono l'intervento dell'autorità consolare per la loro identificazione finalizzata all'espulsione. Quindi ovviamente questo rischio ipotetico sulla gestione concreta da parte delle istituzioni ci può essere, ma questo è un punto, come dire, che i familiari ovviamente non vogliono, cioè la richiesta è quella di sapere esattamente dove sono andati i loro figli, quindi quello ovviamente l'attenzione deve essere massima, proprio perché insomma sappiamo bene quali sono le modalità con cui poi le istituzioni gestiscono anche la questione, qualsiasi tipo di questione, anche una questione, cioè fanno presto a trasformarla in una questione umanitaria per far vedere che si fanno carico di un problema, quando in realtà l'interesse è quello di consolidare il rafforzamento delle barriere. Sì, ok. Guarda, noi ti ringraziamo. Comunque, come sai, come sapete, noi seguiamo questa faccenda e quando ci sono notizie noi seguiamo il vostro blog e vi richiamiamo per avere notizie. Certo, sì, va bene, ci sentiamo sicuramente, ecco, il blog è sicuramente quello attraverso cui diamo tutti gli aggiornamenti, per qualsiasi iniziativa che adesso stiamo cercando di vedere, questa sera avremo un contatto anche con Tunisi per appunto affrontare i passaggi successivi, quindi sicuramente nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti. Va bene, allora grazie, ciao. Buon courage e grazie. A presto, grazie, ciao. A voi. A presto. Grazie a voi della risonanza che date, grazie. Ciao.